che tutti i ragazzi di Amici, possiamo chiederlo, hanno sempre visto la voce di Maria molto confortevole, molto confortevole, molto confortevole, sempre. E io entro nelle case dove vivono i ragazzi. Questo programma si chiama Amici. Molto confortevole. Io sono un pazzo, ci ho preso gusto quanto gusto ci hanno preso Fabio Fazio e Fabio vola a fare solo libri del cazzo. Adesso basta se volete io mi ammazzo. E sai cosa ti dico? Ci ho provato ma l'inferno mi ha sputato, dicendo che il mio posto è già stato riservato un deputato. Ops, hanno cacciato Top of the Pops. Ma in cambio ci hanno dato Paolo Fos. Che cazzo? Cosa dicono le stelle? Mi sogno farmi tutte le Isabelle dette belle. Che rottura di Ballen. Se faccio un compleanno alla Belem dove tutti i soprannomi sono Callen. Voglio tornare alla preistoria, dove la storia doveva diventare ancora una storia, mentre adesso ancora rimaniamo nei casini, nonostante non si vede in giro Masini. Abbiamo due meloni come figli di Marini e basta avere forma per fare le riforme come ha fatto la Gelmini. Bambini, oggi impareremo a come fare i Santini. Fatto, prendendo un Franceschini. Fatto, adesso fate le audizioni. Fatto, viva l'integrazione. Mi sa che arriverà a casa lo sfratto. Ci vuole rispetto, altro che crocifisso. La legge non mi ci affisso. Io non so che cosa rimarrà. Sempre. Tu credi nella chiesa fa niente, io ti rispetto ugualmente ma ti chiamo deficiente. Ma tu che cosa aspetti? Forse il paradiso in vano. Così non vai lontano, il paradiso te lo vedi solo se sei al Vaticano. E Benedetto che mi ha detto che gli piace pure il piano. Che cazzo me ne fo? Io sono Tiziano, tocco ferro di cognome. Io che sono diplomato in fisica spaziale, nemico della logica morale, opposto della fisica normale. E poi ti venga a dire che matite l'anagramma del mio nome. Cazzo, è ovvio che diranno che testo da coglione. Sempre. Io da grande voglio avere tanti bimbi, non come Sgarbi che non è papà ma ha riconosciuto già tre figli. E poi parla con gli artigli, se dici che mi schiero ti sbagli. In questo posto non ci sono buoni, per questo me ne vado in villa col mio amico Silvio Berlusconi. Fuori, io me ne vado in giro con l'asso di cuori. This is my show baby, this is my story. Questa vita voglio fare la velina con Luca Giurata domattina. Mi faccio in una vena se sono nato sotto le canzoni di Cristina D'Avena, che a 50 anni ancora deve darsi medicina. Ehi amica, non farò come Albano, che accuso la gente per avere del denaro, anche se so che ha già rubato il brano da uno sconosciuto, eppure indiano. Chiamatemi pazzo ma non chiamatemi umano. Io sono fuori ma non mi allontano, non mi faccio insultare da una massa di insetti. Ma vattene a far culo tu e Antonello Venditti. Possiamo chiederlo, hanno sempre visto la voce di Maria molto confortevole, molto confortevole, molto confortevole, sempre. E io entro nelle case dove vivono i ragazzi. Sempre. Questo programma si chiama Amici. Molto confortevole. Che mondo di merda. Noi non c'entriamo nulla. Molto confortevole. Sempre. Ha rovinato tutto sto pezzo di merda.